Il mio punto di debolezza è: non ci credo mai abbastanza. Gli altri dicono di me che non so cos'è il dolore, ma io invece dico che lo conosco molto bene. Il mio punto di forza è: so ascoltare. Sono Matteo, modesto e a volte affidabile, tranquillo e timido, estroverso e ostinato. Il mio punto di forza è: non mi fermo finché non ottengo ciò che voglio. Il mio punto di debolezza è la timidezza. Gli altri dicono di me che sono chiusa, ma io invece dico che so ascoltare. Difficoltà per la mia vista, ma io invece dico che ci provo a fare le cose. Il mio punto di debolezza è non sono coraggiosa, il mio punto di forza è mi alleno per diventarlo.